No, no, non so. Non so più a chi credere, no. No, no, non so. Non so più a chi dare del tu. Se vuoi vivere una vita così, basta dire sì. Io dico no, no, non so, non so più se crederti o no, no, no, io no, io non credo all'uomo che sei. Stesse bugie, tutti parlano, non sanno ascoltare, non puoi vivere una vita così. Joker.